Ta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata, scusatemi, economico-finanziaria. Parleremo anche in questo programma dell'esito referendario in Lombardia e Veneto, dal punto di vista economico. Non ce ne siamo occupati se non con alcune dichiarazioni nelle settimane precedenti, perché il tema era di carattere eminentemente politico, ma a questo punto ci sono anche sviluppi non solo di carattere politico. Cerchiamo di fare un ragionamento su che cosa capiterà adesso. Chiaramente altri programmi se ne sono occupati nelle settimane scorse, ospitando sia governatore Zaia che governatore Maroni. E questo lo faremo sia in apertura che nella seconda ora. C'è un fronte sia nazionale su il federalismo mancante, questo federalismo che ciclicamente viene invocato ma poi non si riesce a realizzare, e invece un giudizio anche più di carattere internazionale. Parleremo di questo, ma anche delle novità sulla legge finanziaria, la bozza della legge di bilancio, come si chiama adesso, la legge finanziaria, perché è arrivata anche una norma concordata in sede OCSE, anzi alcune norme, contro il cosiddetto BIPS, cioè Base Erosion and Profit Shifting, ossia una stretta in arrivo contro le aziende che spostano profitti e utili all'estero con il solo obiettivo di minimizzare le tasse da pagare, e quindi norme antiabuso contro le false frammentazioni di sedi per valorizzare il ruolo di rappresentanti che sottoscrivono contratti. Poi salgono a 2.900.000.000 i fondi per il contratto della pubblica amministrazione, proroga del bonus mobili anche per il 2018, e dovrebbe essere confermata, almeno nell'ultima bozza, la stabilizzazione della cedolare secca al 10% per gli affitti abitativi a canone concordato. Scade il 31 dicembre, sconto del 22% per le polizze contro le calamità naturali. E ancora per i prestiti un aumento di circa 400 euro mensili. Praticamente si va a equiparare la retribuzione dei presidi della scuola a quella degli altri dirigenti della pubblica amministrazione. 200 milioni per le cosiddette scuole belle, a me basterebbe che fossero scuole sane e prive di rischi, e poi ma anche uno sconto fiscale per tessere di autobus e treni. 100 milioni per testare mezzi pubblici anti-smog. Questo per quello che riguarda appunto alcune novità. Poi ne parleremo in maniera estesa della manovra di bilancio. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp. Poi, come sempre, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Andiamo con le notizie in breve. E partiamo come sempre dalla borsa, più 0,25% Milano, oggi in linea con il resto d'Europa. Parigi più 0,30, Francoforte più 0,11, Londra invariata, Dow Jones più 0,10, euro sul dollaro a 1,1747. Bene, molto bene, ST Microelectronics oggi più 4,30, Biper Banca più 2% come Italgas, l'1,5% lo guadagna Buzzi Unicem, lo 0,90 Campari e anche Generali. Il fronte opposto vede invece cedere Saipem il 2,20, Mediaset meno 1,1, Jux Interporté meno 1,1, A2A meno 1%, Atlantia meno 0,60. Poco mosse oggi, come sentite, le banche, e tendenzialmente penso a Intesa San Paolo più 0,30%, Banca Generali più 0,20%, ma hanno appunto incrementi occali decimali, non così significativi. Invece per quello che riguarda l'economia internazionale, faccio notare che al di là del fatto che Trump abbia allertato i bombardieri nucleari B-52 per la prima volta dalla guerra fredda, dalla fine della guerra fredda, pronti ad agire in 24 ore, chiaramente la tensione qui si chiama Corea del Nord, però Trump ha detto che deciderà a breve sul prossimo presidente della Federal Reserve. Ho incontrato diversi candidati, mi dicono che si tratti di una corsa a due fra John Taylor e Jerome Powell. Ho incontrato anche Janet Yellen, che mi piace molto, veramente molto, quindi i candidati sono tre, ma anche vi potrebbero essere anche altre due possibilità. Allora, veniamo al Bitcoin. Perché ce ne siamo occupati molte volte dopo il crollo anche del valore conseguente alla decisione cinese di un giro di vita sui Bitcoin. Tra l'altro il 70% di questa criptovaluta viene utilizzata proprio in Cina. Perché lo dico? Perché da un lato ha toccato nel fine settimana un nuovo record, 6.000 dollari, un rialzo del 500% da inizio anno, supera i 100 miliardi la capitalizzazione di mercato e supera colossi bancari come Goldman Sachs e eBay. Le autorità cinesi con questo giro di vita avevano riportato il Bitcoin a un valore di 4.000 dollari, ma adesso è tornato a 6.000. Faccio notare due cose. La prima che il principe miliardario saudita Al-Walid si è aggiunto al coro degli scettici sulla valuta elettronica. Non ci credo, imploderà, sarà come una nuova Enron, se qualcuno ricorda il crack del colosso energetico americano. Non ha senso, non è sottoposto a regole e non è sotto supervisione. Ricordo che anche il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, definì i Bitcoin una frode. E poi è intervenuto anche Jordan Belfort. Chi è? Beh, è l'uomo immortalato, reso celebre dal film The Wolf of Wall Street, Il lupo di Wall Street. Ha detto: attenzione, mette in guardia sulle initial coin offering usate per raccogliere fondi online, vendendo agli investitori, dando in cambio criptovalute come il Bitcoin. Dice: sono la maggior truffa di sempre. Chi promuove le initial coin offering porta avanti una truffa maggiore, la truffa maggiore di sempre, che prima o poi scoppierà. È molto peggio di quanto ho mai fatto io. Nessuna novità oggi sul fronte Barcellona e Catalogna, se non il fatto che la Commissione europea ha dichiarato che rispetta l'ordine costituzionale giuridico e le misure che andrà a prendere, e le misure prese dal governo di Madrid, fa notare Bruxelles, rientrano proprio nella Costituzione spagnola. Adesso arriveremo nella prima parte anche al referendum completamente diverso tra Lombardia e Veneto, però vi segnalo che ci occuperemo anche di rete idrica italiana, perché c'è stato oggi un intervento del premier Paolo Gentiloni nel corso del convegno al Campidoglio "I grandi fiumi del mondo si incontrano". Ma al di là del convegno, Gentiloni ha detto che verranno investite 4 miliardi e mezzo di euro per ridurre le perdite della rete idrica. Nella legge bilancio vi sarà un piano per 2.000 invasi anti-siccità. Sappiamo che il problema dell'Italia non è solo la siccità, per carità, ma è il fatto che noi abbiamo una delle reti più vecchie d'Europa, con una dispersione che a Campobasso e Potenza arriva al 70% e a Cagliari al 60%. Ne parleremo più avanti. Ancora due notizie in breve. Invece l'Istat fa la radiografia delle società partecipate dagli enti locali. Allora, sono calate come numero, ma il numero di impiegati è aumentato. Sono 9.655, erano perché il dato del 2015, con 882.000 addetti, quindi il numero cala del 2%, ma gli addetti crescono del 4%, e a mio avviso questo non va bene, anche perché, come già fece Cottarelli, anche l'Istat segnala che vi sono in questo paese 1.837 società a partecipazione pubblica che hanno zero dipendenti, e ti chiedi che cosa servano. Vabbè, poi a giudizio 41 dipendenti della regione Calabria inchiodati da telecamere nascoste per assenteismo. Il processo inizierà il 19 febbraio. Arrestati invece in Puglia due sindaci per corruzione. In realtà c'era tutto un giro, da quello che si capisce, di reati contro la pubblica amministrazione. E andiamo però allora al primo tema, non perché insomma questo ci porti al referendum, ma perché semplicemente la prima parte del primo tema, al di là del dato politico su cui molti si esercitano adesso, è netta la differenza tra l'affluenza, non tanto tra i sì e i no, ma tra l'affluenza in Veneto e in Lombardia. Molti dicono ne esce più vincitore Zaia di Maroni. Interessa poco da questo punto di vista, così come la posizione di Salvini, che invece era stato, secondo alcuni, un po' freddino sul referendum, perché punta una Lega su base nazionale. Ma questi sono ragionamenti di carattere politico. Altra cosa è capire se adesso potrebbe capitare qualcosa dal punto di vista anche economico, perché i referendum avevano sì un obiettivo politico di maggiore autonomia, ma una ricaduta e un portato eminentemente economico per quello che guarda il residuo fiscale, cioè la parte di tasse versate che deve restare in regione. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Martina, il ministro dell'agricoltura, dovrebbe occuparsi dei problemi dell'agricoltura. L'interlocutore della regione è ovviamente il presidente del consiglio, ma non perché il ministro Martina non abbia diritto al rispetto, ma perché questa partita è una partita importante. Però vedo con piacere nelle dichiarazioni che il referendum, che non serviva a nulla, era inutile, comunque già fa fare delle belle dichiarazioni al governo, quindi ne prendo atto che c'è disponibilità a trattare, andiamo a trattare. Le dicono il modello che si può seguire è quello che è stato applicato per l'Emilia Romagna. Ma guardi, è un modello che non è un modello, perché l'Emilia Romagna non ha concluso un bel niente, non ha firmato l'intesa come prevede la legge, ma ha firmato una dichiarazione di intenti. Noi tifiamo perché l'Emilia Romagna abbia 23 materie e non 5 come quelle che sono state richieste. Certo è che paragonare l'espressione popolare di oltre 2,5 milioni di cittadini in Veneto a una firma di un documento di intenti di 20 righe con l'Emilia Romagna la vedo un po' difficile. Sono molto soddisfatto di come sono andate le cose e mi rendo conto di avere adesso un impegno altrettanto importante, che è quello di dare concreta attuazione al mandato che il popolo lombardo mi ha assegnato, al mandato che milioni di lombardi mi hanno assegnato. Avete sentito in rapida sequenza Luca Zaia questa mattina, 24 mattino, con Luca Telese, poi anche con Oscar Giannino, con una battuta che sta facendo il giro del web. Il ministro Martina si occupi di agricoltura. Martina, oltre che importante rappresentante del PD, è anche di Bergamo. Bergamo, per inciso, è la città dove l'affluenza è stata più alta in assoluto in Lombardia, 57%. Professor Massimo Bordignoni insegna scienze delle finanze all'Università Cattolica di Milano. Buonasera. Buonasera a lei. E più volte il nostro ospite negli anni passati, quando si discuteva molto di federalismo fiscale. Allora, al di là delle dichiarazioni politiche, visto che io penso che sia inimmaginabile che la Lombardia trattenga la grossa parte dei 54 miliardi di differenza tra quanto versa e quanto riceve come fisco, e il Veneto circa 15 miliardi, ma che cosa potrebbe capitare in maniera concreta, visto che lei da anni studia il federalismo nel suo aspetto economico in primis? Vabbè, allora intanto cerchiamo di chiarire, intanto i 54 miliardi e 15 che sono affermazioni fatte un po' così, i conti sono fatti, siamo molto nel calcolare se i residui fiscali dipende molto come uno si mette lì, dove mette la spesa, come tratta gli interessi, come tratta la difesa, eccetera, eccetera. Ci possono essere conti diversi, non c'è dubbio, noi siamo uno Stato unitario, ci sono alcune delle regioni più ricche, altre sono più povere, quindi c'è un trasferimento delle risorse dal nord al sud del paese, le cifre in realtà sono più modeste di quelle che sono state raccontate in campagna elettorale, più i 54 miliardi della regione Lombardia sarebbe il 18% del PIL, sicuramente la Lombardia non trasferisce il 18% del PIL, ne trasferisce forse la metà. Ma detto tutto ciò, che cosa può succedere? Beh, quello è stato raccontato in campagna elettorale, su cui adesso c'è un movimento, non so che cosa sia dove si vada, certo non c'è nessun ragionamento in termini di residui fiscali. Quello che prevede la Costituzione è semplicemente l'attivazione di questo articolo 116. Che cosa può succedere con questo articolo 116? Che la regione chiede degli spazi di autonomia maggiore su tutta una lista di funzioni. Sono 3 funzioni esclusive dello Stato e sono le 20 funzioni concorrenti da parte dello Stato. A giudicare dalle dichiarazioni di adesso sembra che vogliono chiedere tutto su tutto, mi sembrerebbe una cosa poco sensata, in parte perché molte di quelle funzioni concorrenti che sono scritte nella lista dell'articolo 117 non avrebbero dovuto essere lì fin dall'inizio, cioè si parla per esempio delle grandi reti di distribuzione di energia, si parla delle casse di risparmio locali, cioè tutta roba che c'era stato già un ripensamento, accordi anche di parti per modificare la Costituzione, perché era evidente che quelle non sono funzioni che dovrebbero essere date a livello locale. L'unica funzione di un qualche rilievo che potrebbe essere attribuita a livello locale, ma non ho sentito nessuno dei due chiederlo, è l'istruzione, intendo dire gli stipendi degli insegnanti e del personale ATA, qui lì ci sono molti soldi che dovrebbero essere in caso trasferiti. Più probabilmente si chiederanno maggiori risorse in ambienti come infrastruttura, ambiente, eccetera. Le risorse però sono limitate e in ogni caso ti do la variazione sul residuo fiscale, secondo me è comunque nulla, perché ti do una funzione, forse tu sei in grado di esercitarla meglio dello Stato e quindi questa è una cosa positiva, e ti do i soldi per esercitarla, ma ti do soldi, ti do solo quei soldi, o ti lascio più risorse per finanziare quelle specifiche funzioni. Quindi lei sta dicendo, professor Bodignon, da un lato attenzione a questi dati, perché 54 miliardi e 15 probabilmente sono molto più bassi a seconda di quello che tu intendi servizi che ricevi dallo Stato. Lei faceva l'esempio della difesa, allora la difesa come la calcoliamo? La calcoliamo come un servizio che io ricevo o no, in quanto regione italiana? E poi dice alcune materie concorrenti già non dovrebbero essere concorrenti, dovrebbero essere di prevalenza dello Stato, ve ne sono alcune in cui invece, faceva riferimento alla scuola, vi potrebbero essere maggiori fondi che arrivano alle due regioni, non solo, c'è anche l'Emilia Romagna. Rimangono per finanziare quelle funzioni. Guardi, un problema che c'è, ed è un peccato in questo paese, perché veramente ci si perde, il vero problema è che l'articolo 116 non ha un'interpretazione chiara, cioè non c'è un meccanismo di attuazione, di implementazione di quell'articolo 116 che ci permetta di decidere come andare avanti, quindi sarà basato sul negoziato. Non ora, ma 10 anni fa, io avevo lavorato al suo tempo con la ministra Lanzillotto, quando era ancora ministra degli affari regionali, avevamo trovato un documento che allora era anche condiviso dalle regioni e poi la cosa si è persa nel nulla, perché ovviamente non si può pensare tutte le regioni improvvisamente si mettono a chiedere tutte le funzioni in maniera matta e leopardia, ci dovrebbe essere un meccanismo in cui dice, va bene, primo, quali sono le precondizioni per poter chiedere queste funzioni in più. È chiaro che se il bilancio di una regione è sfasciato, lei magari non vuol dare queste funzioni a quella regione. Secondo, quali sono le caratteristiche per continuare a mantenere queste funzioni? Per esempio, nell'accordo che era stato trovato al suo tempo si parlava anche della possibile reversibilità delle funzioni, perché può darsi benissimo che una regione sia in equilibrio di bilancio oggi, si vengono trasferite altre risorse, altre funzioni, domani l'altro invece questa regione è in crisi finanziaria. Che cosa facciamo in quel caso lì? Cioè, intendo dire, questi meccanismi, che l'autonomia di per sé è una cosa positiva, quindi secondo me ci sono alcuni aspetti che più legati al territorio in cui probabilmente anche un ruolo maggiore delle regioni è giustificabile. Dovrebbe essere fatto attraverso un quadro organico e sensato di attribuzione delle risorse e di mantenimento delle funzioni. Chiarissimo, e ha fatto bene a ricordare anche perché noi la ospitammo a suo tempo, che non è che da adesso si stia parlando di federalismo fiscale, mi ricordo quando si cercò di usare il benchmark delle regioni virtuose sulla sanità, però poi devi entrare al di là delle dichiarazioni politiche, devi entrare nella materia e mi sembra molto di buon senso il dire, va bene, ti posso anche dare alcune materie concorrenti come uniche, però tu devi dimostrarmi che le si può gestire bene, cioè non è che ti possa dare, per esempio, in caso della scuola, se hai una situazione scolastica devastata o altre materie, e poi anche stabilire dei criteri per cui tu puoi mantenere l'esclusività o la delega, diciamo, esclusiva su quelle materie, perché se poi la regione amministra male o ha problemi di bilancio o ha problemi di gestione proprio di quella materia, ci deve essere anche la possibilità di revocare la materia stessa. Grazie anche a Massimo Bordignon, che trovo sempre molto, puntuale nelle osservazioni. Dopo il 18 ne parleremo invece sul fronte più di carattere internazionale ed economico. Una cosa la dico prima di andare sul metro, pubblicità, chi mi scrive: guardate che è innegabile, perché si chiama democrazia, che per Zaia, ma non solo, in parte anche per Maroni, l'adesione, l'affluenza sia un aiuto, diciamo, politico fortissimo, perché insomma, non, lì ti giocavi la cosa. Altra cosa è capire poi che cosa andiamo a delegare in parte o totalmente, ma è, ripeto, è innegabile che Zaia, e ripeto, in parte anche Maroni, abbiano a questo punto un'investitura, soprattutto in Veneto, molto forte, 57% dell'affluenza, con le percentuali di sì che abbiamo visto, è un'investitura fortissima. Poi come se la giocheranno gli altri partiti, PD, Forza Italia, così, sono fatti loro, non mi interessano. Andiamo sul meteo e la pubblicità e poi andiamo ad analizzare anche la manovra finanziaria prima della borsa i progetti, gli investimenti sulla dispersione idrica. Poi torneremo di nuovo sull'aspetto dei referendum. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. :17:36, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa e poi anche gli sprechi idrici. Qualcuno vorrei sapere di Banca d'Italia, ma non ci sono oggi novità. Il tempo stringe, c'è la richiesta di MDP che il sottosegretario Boschi non partecipi e si astenga dal partecipare alle decisioni del governo sulla Banca d'Italia, vista la posizione del padre e visto il fatto e quanto fece la Banca d'Italia su o non fece, secondo alcuni, su Etruria. Poi vi torneremo. Qualcuno continua a chiedermi della battuta di Giulio Tremonti a questi microfoni sugli illuminati. Vabbè, poi magari ve la facciamo risentire. Andiamo avanti con la borsa. Più 0,30% Milano, più 0,30% Parigi, invariata Francoforte, Londra, più 0,13% Dow Jones, più 0,12% Saipem, meno 2,60% Media, 7,1,40% 2A-1% Hughes, Santa Porte, meno 0,80% come Atlantia e Banco BPM. Fronte opposto invece ST Microelectronics, più 4,30% Italgas, più 2,15% Buzzi Unicem, più 1,60%, Biper Banca, più 1,5%, Campari, più 1%, Leonardo, più 0,80% come Enel. Oggi, come ogni tanto facciamo il commento, lo chiediamo, operatore di borsa Filippo Diodovic, strategist di IG Italia, buonasera. Buonasera a tutti. I due fronti, ST Microelectronics, più 4,30% da un lato e Saipem, invece oggi un po' in sofferenza, meno 2,60. Sì, beh, per quanto riguarda STM ha guadagnato, diciamo, molto un po' dalla vivacità del settore. La notizia per quanto riguarda Cisco Systems, che è pronta a acquistare per quasi 2 miliardi di dollari un software, BroadSoft, che è un'azienda che produce software nel settore delle telecomunicazioni statunitense, ha portato acquisti nel comparto, soprattutto STM, che lavora molto per quanto riguarda i componenti elettronici nel settore della telefonia cellulare, è riuscita a evidenziare un movimento rialzista molto importante. Per quanto riguarda invece Saipem, oggi ci sono state vendite, domani pubblicherà la trimestrale prima dell'apertura di borsa. Molti fondi hanno deciso di ricoprirsi per quanto riguarda sul titolo. Le previsioni sulla trimestrale di Saipem non sono molto positive, soprattutto in termini di ricavi e di portafoglio ordini, che dovrebbe evidenziare entrambi dei ribassi importanti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E questo ha portato, insomma, anche le vendite a essere anche qui abbastanza significative. Sì, poi la giornata non è stata pazzesca, devo dire, né a Milano né nelle altre piazze europee. Tra l'altro abbiamo visto più tranquillità sui titoli bancari rispetto alle settimane scorse. È salita anche Italgas, oggi più 2,15, c'è una trimestrale che vede gli utili balzare del 27,8% a oltre 213 milioni. Sì, la trimestrale di Italgas è stata sicuramente molto positiva, sia da un punto di vista di ricavi, utili, ma anche di margini. Sono stati confermati anche gli obiettivi per i prossimi anni, quindi questo ha portato tanto entusiasmo in borsa, è uno dei titoli migliori di Piazza Affari, e crediamo insomma che ci siano proprio anche le prospettive, visti proprio i 9 mesi, i risultati industriali dei primi 9 mesi sono stati veramente ottimi, ci siano anche prospettive per un'ulteriore crescita anche nell'ultimo trimestre. Ancora per quello che riguarda Fiat, allora oggi il quotidiano Le Monde scrive che Fiat è sospettata di aver ostacolato l'inchiesta francese sul Dieselgate e, stando alle informazioni che riporta il giornale francese, rischierebbe addirittura una multa pazzesca, se ho ben visto, adesso vado a riprendere la cifra, 10 miliardi di euro per ostacolo all'attività di vigilanza. Il titolo però non mi sembra che ne abbia risentito. Perde lo 0,50%. Invece, per quello che riguarda le altre vicende di borsa, segnalo anche debolezza in Mediaset meno 1,40%. Cosa sono? Mediaset continua a essere molto sull'altalena? Sì, allora, per quanto riguarda Mediaset, in questo momento è vero, sì, ci sono ancora c'è molta incertezza sul gruppo, più che altro per come si evolveranno le questioni in merito con Vivendi. Al momento il nostro consiglio è quello di, per chi insomma, è interessato a un investimento in Mediaset, di pensare veramente di avere molta cautela, perché come ho detto non è stato per tanto tempo, Mediaset non ha evidenziato un'ottima performance, e questo insomma può portare a pensare che su questi livelli possa essere interessante un'entrata. Ma finché non verranno risolte le questioni societarie, il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad altri titoli. Allora, mi chiedete giustamente di Madrid, è l'unica borsa negativa oggi, meno 0,60% l'Ibex 35, a dimostrazione che comunque le tensioni in Catalogna e le accuse anche quasi reciproche di colpo di Stato contro il popolo della Catalogna che arrivano da Barcellona restano elemento di tensione. Per quello che riguarda Wall Street, no, non ho visto reazioni pazzesche all'allerta che Trump ha dato ai B-52 pronti in 24 ore. Non capitava dalla fine della guerra fredda di avere un'allerta del genere, cioè entro 24 ore devono essere in grado di bombardare, chiaramente il riferimento era alla Nord Corea. Per andare in prospettiva di settimana invece, Diodovic, mi sembra che, come più volte abbiamo ricordato anche per via della vicenda Visco e quindi governatore della Banca d'Italia, l'appuntamento più importante della settimana sia giovedì, quando la Banca Centrale Europea con i governatori anche delle varie banche deve decidere le modalità di riduzione del quantitative easing, che per noi è fondamentale, cioè l'acquisto di titoli di Stato da parte della BCE, che oltre che stampare moneta tiene bassissimi rendimenti perché li compra anche lei e quindi permette tassi di interesse molto bassi per finanziare il nostro debito. Sì, sicuramente giovedì è uno dei momenti più importanti per quanto riguarda l'economia in generale, perché non solamente solo la zona euro o solamente l'euro, ma anche per tutto l'azionario, l'obbligazionario. Al momento sì, crediamo che Draghi dovrà spiegare le tempistiche per quanto riguarda il tapering, quindi la diminuzione del quantitative easing. Sappiamo come il sistema bancario italiano dipenda molto, è riuscito a limitare proprio i problemi, la crisi, grazie proprio alle azioni della BCE, quindi ecco, da seguire con particolare attenzione proprio il meeting e soprattutto la conferenza stampa di Draghi, dove annuncerà proprio i dettagli delle tempistiche delle prossime azioni. Crediamo che si rivolgerà solamente per quanto riguarda quindi il piano di quantitative easing, per quanto invece concerne il rialzo dei tassi, questo sarà solamente alla fine del piano, quindi ancora molto tempo per prima che la BCE possa seguire l'esempio della Federal Reserve rialzando anche il costo del denaro. Allora vado a chiudere con una notizia poco fa diffusa dalla Fiat Chrysler France, che dice: abbiamo sempre collaborato con le autorità francesi, siamo fiduciosi sui chiarimenti, anche non siamo in grado di commentare ulteriormente le indiscrezioni giornalistiche perché non abbiamo ancora avuto accesso al fascicolo, ai fatti dell'inchiesta. Andiamo sui migliori e peggiori in assoluto: Notorious Picture più 15,50, Lucisano Media Group più 6,50, Invest più 5,60, Mono TV più 5,30, Gambero Rosso più 5, Fronte Opposto, Safe Bag meno 5,40, Mondadori Editore meno 5, Industria Innovazione pure, CHL scusatemi, meno 5%, Bion meno 4,65%. Grazie anche a Filippo Diodovic di IG Italia. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Minuti, mentre vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul tema del referendum, molti sulla Lombardia, guardate che l'affluenza è stata bassa e quant'altro, adesso vi arriviamo, un tema che è di carattere nazionale ma anche di gestione poi regionale, non affrontato necessariamente, oddio, in alcune delle deleghe richieste dal Veneto soprattutto, è il tema della rete idrica italiana. Ne parliamo perché oggi è intervenuto su questo anche il premier Paolo Gentiloni nel corso di un convegno a Campidoglio a Roma. Il titolo sembra così un po' generico: i grandi fiumi del mondo si incontrano, ma restiamo a casa nostra. Le perdite della rete idrica italiana in media sono del 40%, cioè ogni 100 litri immessi 39 li perdiamo. Sono 425.000 chilometri di rete. Se andiamo a vedere anche gli allacciamenti siamo a 500.000 chilometri. Anche qui però le differenze sono pazzesche, e soprattutto la cosa che mi fa più girare le scatole è che le regioni che avrebbero più bisogno di una rete idrica efficiente, perché meno fortunate dal punto di vista geografico, sono quelle che disperdono di più. Al nord le perdite sono il 26% in media con quella europea, al centro 46%, al sud 45%, a Campobasso si arriva al 68%, a Cagliari al 60%. Pochi gli investimenti fatti, dal 1969 in poi abbiamo investito appena lo 0,1%, abbiamo anche delle tariffe molto basse, 248 euro l'anno una famiglia di 4 persone per la bolletta dell'acqua, in Germania che ha controllo pubblico quasi 800 euro, in Spagna comunque più alta di noi di 100 euro, 340, Francia 600 euro, Grecia 243. Il premier Gentiloni che ha detto: insomma, il governo ha stanziato 4 miliardi e mezzo per la riduzione della rete, delle perdite della rete idrica. Fenomeni che ci investono direttamente, investono il Mediterraneo, investono il nostro paese con l'alternarsi di alluvioni e siccità. Quindi di fenomeni di segno apparentemente opposto che comunque sono il frutto anche in Italia dell'impatto di questi cambiamenti climatici. Quindi dobbiamo lavorare guardando al futuro, il governo è impegnato sia in un piano di riduzione delle perdite della rete idrica per il quale sono stati stanziati 4 miliardi e mezzo, e sia più recentemente con la legge di bilancio che viene discussa in Parlamento in queste settimane con un piano contro la siccità che per la prima volta si propone di valorizzare l'accumulo di acqua piovana in circa 2000 bacini di piccole e medie dimensioni. Professor Carlo Scarpa, che insegna economia politica all'Università di Brescia, anche in questo caso nostro ospite altre volte proprio sui temi delle reti idriche. Io vorrei un commento a questo, perché i 4 miliardi e mezzo arriveranno divisi, ma in questo momento, visto che poi parleremo di nuovo di Lombardia e Veneto, il problema è la miriade, o sono la miriade di società che gestiscono la rete idrica italiana, o l'assenza tout court di investimenti su base nazionale? Ma è un mix di problemi, come sempre. Un problema è intanto il fatto che ci siano delle tariffe molto basse. È chiaro che se ci sono delle tariffe molto basse, gli investitori faticano a finanziare gli investimenti e quindi gli investimenti non si fanno, a meno che non arrivino queste iniezioni un po' a fondo perduto, che voglio dire, vanno bene, però vuol dire scaricare sul contribuente invece che sul consumatore. Da qualche parte i soldi devono comunque saltare fuori. Sicuramente c'è un tema di scarsa efficienza dell'organizzazione dei servizi, o scarsa efficienza nel senso che abbiamo molti gestori molto piccoli e fatalmente poco professionali, cioè poco dotati di professionalità tecnica, di capacità tecnica per gestire questi acquedotti, per cui è un mix di problemi. Probabilmente mettersi dei quattrini è la risposta più semplice, ma forse non è quella più sensata nel medio periodo. Però al di là delle promesse di Gentiloni del governo su questo, noi vediamo che la dispersione è molto diversa anche in questo paese. Solo sul 14% della rete vengono adottati sistemi tecnologicamente avanzati per verificare perdite. Alcuni mi scrivono: guardate che sono più che altro furti più che dispersione. Però mentre Gentiloni oggi ha difeso l'accordo di Parigi, altri mi dicono: sì, adesso volete farci pagare ancora di più l'acqua mentre continua poi la dispersione idrica. È un problema di singole poi realtà, al di là della bolletta, perché insomma, quando vediamo che si disperde al sud il doppio rispetto al nord, insomma, la rete idrica dovrebbe essere uguale per tutti, no? Questa è la teoria, la pratica è un'altra. Le racconto molto brevemente la storia di un investitore pubblico del nord che aveva preso delle concessioni in Sicilia, ha presentato il piano industriale alle amministrazioni locali, si è sentito dire: ma lei non vorrà mica veramente portare l'acquedotto dovunque? In questo modo ci salta il business di questi signori che campano. Mafia. Ma no, è la mafia che usa in Sicilia ovviamente ancora. Ovviamente questa è mafia. Vabbè, certo, sappiamo che la mafia, non so se tutti lo sappiano, ma insomma in Sicilia le botti, le autobotti piene di acqua sono da sempre, la magistratura se ne è accorta molte volte, gestite dai clan mafiosi, quindi è ovvio che questo giustifica meno però altre situazioni, lo dico, insomma Puglia, Basilicata, anche Sardegna, laddove, insomma, non vorrei adesso sembrare troppo generico, ma la presa e il controllo sul territorio delle mafie non è così alto come in Sicilia, Scarpa. Assolutamente, allora è evidente che c'è una inefficienza storica che si va a scontare. Quando c'è questa inefficienza si fatica ad avere gli investimenti. Poi ribadisco, è anche un problema di prezzo basso, perché se io vendo acqua e questa acqua costa poco, chi me lo fa fare di investire molto nell'evitare le perdite? La perdita è perdita di qualcosa che comunque mi renderebbe poco. Cominciamo a far pagare veramente il costo di questi interventi. Io ricordo ancora quella bella legge Galli che ci fu a fine metà anni 90, ricordo 94-96, una delle grandi battaglie della sinistra di allora, che diceva: l'acqua deve costare di più. Perché? Ma perché dobbiamo risparmiarla per le future generazioni, perché dobbiamo accertarci che ci sia acqua per tutti. Quindi dobbiamo alzare i prezzi dell'acqua facendo pagare a tutti il costo pieno della risorsa, incluso il costo ambientale, eccetera, eccetera. Purtroppo adesso anche la sinistra... Mi faccia fare, professor Scarpa, una previsione molto facile: nessuno toccherà le tariffe idriche da qua a marzo-aprile del 2018, questo glielo do per certo, mi gioco, diciamo, la poltrona se vedo che qualche amministrazione sotto periodo elettorale si mette a toccare tariffe idriche, ma stiamo scherzando. Dopodiché è vero quello che dice lei, così rispondo anche a alcuni ascoltatori: attenzione, è ovvio che tu non aumenti le tariffe per mantenere la dispersione attuale, soprattutto in certe regioni, ma far pagare di più un bene aumenta anche il valore che io attribuisco a quel bene, eh? E questo è un problema invece di spreco idrico. Grazie anche al professor Carlo Scarpa. Andiamo sul GR24, poi le novità in manovra finanziaria e di nuovo, vista da un fronte internazionale della finanza, l'esito dei referendum in Lombardia e Veneto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Diciotto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e con una battuta potremmo dire occupiamoci, dacci oggi anche il nostro aggiornamento sulla legge di stabilità, aggiornamento quotidiano, perché altre novità stanno arrivando e continuiamo a monitorarle, nel senso che è stata aumentata, se ho ben visto, la parte che riguarda il contratto della pubblica amministrazione, salgono a 2,9 miliardi per quello che riguarda il triennio 2016-2018, quindi 2009 a decorrere dal 2018, dopo aver avuto 300 milioni nel 2016 e 900 milioni per il 2017, questo per garantire gli aumenti di 85 euro medi mensili. Per i presidi equiparati invece agli altri dirigenti della pubblica amministrazione l'aumento sarà di circa 400 euro mensili, 200 milioni di euro per le scuole belle e poi sconto del 22% sul contro le calamità. Ne vorrei parlare, come spesso facciamo, con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera, buonasera a voi. La prima domanda te la giro direttamente dal 349-238-6666. Quando finiranno le novità in bozza, le bozze delle bozze? Speriamo presto. Tendenzialmente giovedì, quando in deroga tutti i limiti, i termini, le scadenze, eccetera, il testo della manovra dovrebbe arrivare al Senato. Quindi si capirà qual è l'aspetto definitivo, diciamo così, del testo che teoricamente sarebbe stato approvato molti giorni fa dal Consiglio dei Ministri. Naturalmente in Senato e poi alla Camera ci sarà la rida delle novità parlamentari, la discussione eccetera, ma quello fa parte della fisiologia. Un po' meno fisiologico e un po' più patologico il fatto è che da a 8 giorni dall'approvazione in Consiglio dei Ministri queste bozze, bozzette, semibozze della legge di stabilità stanno continuando a evolvere. Ci sarebbe una legge italiana che dice che entro il 20 la manovra, la legge di bilancio deve arrivare in Parlamento, ma si sa che i termini in Italia sono delle indicazioni, dei suggerimenti, diciamo così, più che degli obblighi importanti. Qual è il punto poi vero? Hai elencato giustamente una serie di fondini che aumentano, il tutto all'interno di una coperta che rimane molto corta per i problemi di deficit, per cui questa rida di novità, al di là del fondo per gli statali che era atteso perché i contratti hanno un costo specifico, i rinnovi dei contratti nel pubblico impiego hanno un costo specifico e un anno fa il governo ha promesso 85 euro lordi, quindi i calcoli sono facili da fare, tutti gli altri sono micro misure che man mano devono trovare delle coperture dall'asciugamento di altri fondi. È un lavorio che è ancora in corso, diciamo che giovedì la vediamo. Allora, sono d'accordo con l'ascoltatore che dice che brutta espressione scuole belle, sì, questa retorica un po' infantile. Le scuole devono essere non belle né buone, devono essere efficienti e sane, cioè non crollare. Belle, chi se ne frega da questo punto di vista. Vedo che c'è un ulteriore ritocco perché lo sconto fiscale per chi accende una polizza contro le calamità, contro ogni tipo di evento calamitoso, protezione della casa, è del 19%, non del 22% come precedentemente detto. Ancora c'è sempre nella bozza vi sarebbero detrazioni fiscali per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la proroga del bonus mobili anche per il 2018 per mobili elettrodomestici, detrazione che ha un tetto di 10.000 10.000 euro. Da questo punto di vista, Gianni, però l'ammontare complessivo della manovra non mi sembra che sia mutato, cioè 20 miliardi di cui, come abbiamo spiegato, quasi 16, 15,7 per sterilizzare l'aumento dell'IVA, e mentre per quello che riguarda gli investimenti pubblici sono 300 milioni aggiuntivi, diventano 1,3 miliardi nel 2019, non è, è la parte che riguarda le politiche a favore dei neoassunti giovani sotto i 35 anni, 300 milioni che salgono a 800 nel 2019 e 1 miliardo e 2 nel 2020. Il perimetro non sta cambiando? No, il perimetro non può cambiare, proprio questo spiega il lavorio da formica che c'è sul testo, perché ogni decina di milioni che metti su una voce è una decina di milioni da togliere da un'altra voce, perché il totale deve rimanere quello concordato con l'Europa. Noi abbiamo mandato quello sì in modo puntuale a Bruxelles il documento con i numeri chiave della manovra, abbiamo un po' di spazi di libertà all'interno dei numeri chiave che rimangono immutati, e quindi anche la gran parte delle novità che giustamente elencavi prima sono novità che dal punto di vista finanziario valgono in media poche decine di milioni, sempre nell'ottica, diciamo, della retorica un po' fastidiosa che caratterizza molte norme in questi anni. Ricordiamo che nell'ultima bozza è spuntato anche sono spuntati anche i fondi per la proroga dell'operazione Strade Sicure, cioè quella con i militari dell'esercito agli angoli delle strade per dare un po' di protezione e dare soprattutto un'immagine, diciamo così, di sorveglianza e di vigilanza. Ecco, mi sembra, per concludere Gianni, che la novità, se poi verrà confermata, più forte sia una stretta contro il fenomeno BEPS, cioè Base Erosion and Profit Shifting, ossia le società che spostano profitti e utili all'estero con il solo obiettivo di minimizzare le tasse da pagare, in questo caso in Italia, e quindi fare le norme contro le false frammentazioni di sedi della società. Esatto, e questo è un filone destinato a riscuotere una certa fortuna in Parlamento quando tornerà di stretta attualità a Web Tax, cioè la tassazione sul settore che più di ogni altro sposta e frammenta artificialmente le proprie sedi societarie. Quindi di quello si parlerà in Parlamento, e da lì potrebbero arrivare, se l'impianto reggerà, anche delle coperture buone per altre misure. Allora, mi sa che ti risentiremo, o te o altri colleghi del quotidiano che stanno seguendo l'evoluzione della bozza e che poi arriverà in Parlamento. Sì, della legge. Deve arrivare presto, della legge di bilancio. Grazie a Gianni Trovati, andiamo sul traffico e poi di nuovo referendum Lombardia e Veneto, con le implicazioni anche di carattere internazionale. Focus Economia. Soy el fuego que... Torniamo a parlare, ne abbiamo fatto in apertura ascoltando le dichiarazioni di Luca Zaia dai nostri microfoni questa mattina, e anche del governatore Lombardia Maroni. È innegabile che ci sia una grossa differenza sull'affluenza, 57% in Veneto, 38,2% in Lombardia. Qualcuno mi dice, insomma, Lombardia è stato un flop, dipende dalle singole province, insomma, a Bergamo no, al 57%, a Milano sì, dove non si è arrivati al 30% dell'affluenza. Detto questo, il dato politico c'è tutto, a maggior ragione in Veneto. Vedo che adesso il segretario del PD Matteo Renzi ha dichiarato su Facebook: il risultato in Lombardia e soprattutto in Veneto non va minimizzato, il messaggio è serio, si chiedono più autonomia e più efficienza, maggiore equità fiscale, lotta agli sprechi a livello centrale e periferico. Il modo corretto per affrontare il futuro per me non è solo la procedura dell'ex articolo 116, come chiedono i governatori anche dell'Emilia Romagna, ma prendere atto che in Italia esiste una gigantesca questione fiscale, ridurre la pressione fiscale, questa è la vera priorità. Sì, oddio, esiste anche una sperequazione fiscale, perché purtroppo nella classifica dei nostri sprechi, ahimè, alcune regioni, Sicilia, Calabria, Puglia e anche Campania, la fanno da padroni. Detto questo, in altri programmi che si occupano di politica uno potrebbe chiedersi, vabbè, ma se il tema c'è, perché il PD ha avuto un appoggio così a macchia di leopardo, cioè in Veneto si è schierato per il referendum, in Lombardia ni, nel senso che il sindaco Sala poi non è andato a votare, il ministro Martina era molto critico, il sindaco PD di Bergamo Gori invece a favore, insomma forse ci si poteva pensare anche un po' prima. Detto questo, il professor Lorenzo Codogno, già capo economista del Ministero del Tesoro a Roma, e visiting professor alla London School of Economics e fondatore del LC Macro Advisors da Londra, buonasera. Buonasera. Mi dica una cosa, visto che poi all'estero la percezione può essere anche un pochino distorta, è più, viene visto con maggiore preoccupazione la battaglia che ha scatenato Renzi, il PD, sulla nomina del governatore della Banca d'Italia Visco, o questo referendum che uno potrebbe immaginare che dall'estero venga quasi associato, per quanto siano due cose assolutamente distanti, a quanto sta avvenendo in Catalogna, quindi una richiesta di maggiore indipendenza, autonomia, in questo caso pure solo fiscale, e quindi con difficoltà del governo nazionale? Ma direi entrambe, anche se la vicenda Visco è una cosa temporanea e penso che verrà risolta nel migliore dei modi, mentre il problema regionale e di autonomia è un problema che è emerso adesso, ma non è nuovo e probabilmente ce lo porteremo dietro per molti anni, quindi è per certi versi più preoccupante. E poi c'è questa linea con la vicenda della Catalogna, che a mio avviso non è forte, anzi la situazione è completamente diversa, però c'è la tentazione di associare le due cose, questo è ovvio. E quindi dice, sulla Banca d'Italia si sa che la vicenda verrà risolta a breve. Lei ne ha scritto anche oggi, chiedendosi che cosa adesso potrà capitare. Le rigiro la domanda, che cosa potrà capitare? Ma penso che prenderà il via un processo molto lungo di negoziazione tra queste due regioni e lo Stato centrale, il governo, che poi sfocerà in qualche momento in futuro in un accordo che verrà poi sottoposto al Parlamento. Questo è l'iter. Di fatto penso che si aprirà una grande discussione. Il referendum che il governo Renzi aveva proposto nel dicembre dell'anno scorso e che andava a toccare anche il titolo quinto della Costituzione, il problema è più che mai aperto adesso, quindi il referendum non è passato, ma penso che qualsiasi governo governerà il paese in futuro dovrà ripensare a questo problema e magari insieme al Parlamento prendere iniziativa per una nuova riforma costituzionale, perché è chiaro che continuando così in ordine sparso, diciamo, questa non è un'autonomia che funziona, bisognerà ripensare tutto il modello della relazione tra lo Stato centrale e le regioni e il governo locale in genere, dando sì più autonomia locale ma anche più rappresentanza a Roma e soprattutto più controllo a livello locale, perché non dimentichiamoci che metà della spesa pubblica è locale in Italia. In passato non sempre questa spesa pubblica è andata primo nei canali migliori, secondo a volte non è stata sotto controllo, quindi bisogna tener conto anche di questo fattore che è importante a mio avviso. Sì, devo dire che nella nostra poco invidiabile classifica spesso abbiamo le regioni o le province o i comuni, a dimostrazione che non è vero che basti essere locali per amministrare bene, magari non avremo neanche la classifica a quel punto. Però su questo lei faceva notare, io ricordo anche quanto ci ha detto all'inizio del programma professor Bordignon, che c'era, io non dico che uno debba usare quello, ma si può anche ripartire dai lavori fatti nel passato, uno studio sulle deleghe e conferimenti soprattutto di responsabilità tra Stato e regioni, che prevedeva che tu potevi dare alcune materie, in questo momento concorrenti come si chiamano, dare solo alla regione la materia, però con dei paletti. Intanto, se la regione aveva dimostrato di essere virtuosa da un punto di vista economico e finanziario nel gestire quella materia e complessivamente, e poi dicendo attenzione, la delega ti può essere levata sulla materia concorrente se tu poi amministri male, e questo vale per tanti fattori. A me preoccupa, lo dico chi scrivo, l'idea di dare il commercio all'estero, alle regioni, ragazzi non scherziamo, con la globalizzazione il commercio con l'estero è una cosa serissima, non basta la regione, serve un'iniziativa di carattere nazionale, su questo non ho dubbi. Professor Codogno, una cosa che le vorrei chiedere invece, spostandoci da Lombardia-Veneto, quanto è accaduto la settimana scorsa e dovrà accadere questa settimana, perché bisogna rinnovare, bisogna dare un nome per il governatore della Banca d'Italia. Molti temono che nella riunione di giovedì della Banca Centrale Europea, quando si andrà a discutere di come ridurre il quantitative easing, quindi acquisto di titoli di Stato da parte di Mario Draghi, 60 miliardi al mese, l'Italia, che avrebbe un interesse a difendere una posizione più morbida possibile, perché siamo tra i principali beneficiari, possa arrivare in una posizione di debolezza, cioè proprio per le vicende del governatore. Ma dubito, nel senso che comunque tutti sanno che in tutti i paesi principali ci sono queste fasi di transizione, di nomina dei vertici delle banche centrali nazionali. Quindi insomma è una fase di transizione, ripeto, quindi non penso che per una riunione, anche se molto importante devo dire, della Banca Centrale Europea, questo possa indebolire in maniera strutturale la posizione italiana. Non lo penso. E invece come lei ritiene che Mario Draghi si muoverà, diciamo, per scelte che ha già elaborato, comunque non certo per la debolezza della riconferma di Visco al governatore della Banca d'Italia? Lei ritiene personalmente, visto che ha lavorato anche al Ministero del Tesoro a Roma, che a questo punto Visco vada blindato, oppure che ci sia un elemento anche di opportunità? Ma io penso che in tutte le democrazie la scelta del governatore della banca centrale spetta alla politica, quindi è giusto che la politica dica la sua. Va anche detto che la scelta va fatta su criteri di competenza e non soltanto sollevando un polverone, perché è facile dire le cose non sono andate bene, quindi è colpa del governatore, quando la situazione, sappiamo tutti, è molto più complessa, è molto più articolata, e dare un giudizio complessivo sull'operato della Banca d'Italia del governatore sarebbe troppo, rischiamo di scendere sul livello del dibattito dei populisti o delle persone che tendono a contestare l'establishment. Cioè le dice, si rischia di dare più colpa alle guardie che ai ladri? Sì, no, si rischia di fare delle polemiche inutili. A mio avviso la valutazione sul governatore e sulla Banca d'Italia va fatta nel complesso di tutte le azioni. Teniamo presente che la Banca d'Italia ha fatto molto per riformare il sistema bancario e cercare di mettere una toppa ai problemi più severi che sono emersi durante la crisi. Quindi a mio avviso un giudizio complessivo, per carità, gli errori ci sono stati fatti, ma un giudizio complessivo sull'operato della Banca d'Italia del governatore non può prescindere da un'analisi più attenta e più approfondita, mentre qui penso che il rischio sia di scendere su un livello di dibattito molto basso che purtroppo abbiamo visto in questi giorni e che certo il governatore non merita. Grazie anche a Lorenzo Codogno, appunto già capo economista del Ministero del Tesoro a Roma e visiting professor London School of Economics. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vedo ancora molti messaggi, qualcuno dice ma insomma il MOSE dove lo mette, la Pedemontana in Lombardia, ho capito, abbiamo parlato anche di quei casi, ci mancherebbe, però è innegabile che alcune regioni siano amministrate meglio di altre. Insomma, su questo non è diventare poi razzisti o non razzisti, si tratta di un dato oggettivo. Comunque torneremo forse a parlare anche domani. Intanto da Sebastiano Berigioni le auguro una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.